everybody play the game of love. Di nuovo in studio con Essere Avere, oggi per il focus sui trend parliamo di consumi in gioco, parliamo del protagonismo crescente del gioco e dei suoi meccanismi nel mondo dei consumi, moda, comunicazione, marketing, ma non solo, come scopriremo tra poco in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club. Ciao Patrizia, ben ritrovata. Grazie, ciao, buongiorno. Molto utilizzato nel marketing, il gioco ormai è entrato anche nei modelli di business, nell'economia, nel mondo del lavoro e della salute, nei temi sociali quali la difesa dell'ambiente e dei diritti umani, dai giochi urbani ai videogiochi educativi o di denuncia, dalle app che trasformano in gioco le attività di tutti i giorni ai social game che assegnano punti a chi compie buone azioni. Oggi il gioco, insomma, fa tendenza, Patrizia. Da puro intrattenimento, giocare diventa funzionale alle vendite, un modo per far dialogare più facilmente brand e consumatori e coinvolgere, ingaggiare, come si dice, questi ultimi. È la gamification che fa leva sulla ludicità, oggi un bisogno molto importante degli individui, e diventa quindi un'opportunità per le aziende in chiave marketing, appunto. Giocare, partecipare a giochi e concorsi per vincere premi oggi muove sempre più consumatori. Secondo i dati di Altimeter.com sul rapporto tra engagement e performance finanziarie dei brand, quelli che puntano sull'engagement aumentano il loro valore del 18%. I brand che non lo fanno, cioè che non coinvolgono, non solo non lo aumentano questo valore, ma scendono del 6%. Il gioco quindi incide direttamente sul coinvolgimento, questa è l'equazione importante. Nel 2013, secondo Constellation Research, più del 50% di tutte le iniziative di social business avranno una componente di gamification. Citiamo un caso recente tra i tanti: Nestlé Kit Kat e la barretta di cioccolato che contiene un biglietto vincente come nella storia di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. 6 snack fortunati contengono un dispositivo GPS con LED lampeggiante che, attivato scartando la barretta grazie a un geolocalizzatore satellitare, fa sì che i fortunati vincitori ricevano i premi che sono stanziati fino a 10.000 pound, 10.000 sterline, consegnati entro 24 ore dal momento in cui la barretta è stata appunto aperta, da un team speciale in stile comando ovunque si trovino in tutto il Regno Unito e in Irlanda. La campagna si chiama We Will Find You, Ti Troveremo. Uso originale del gioco per le assunzioni e per il reclutamento di nuovo personale, ma anche per la formazione e la motivazione dei collaboratori. Il caso dell'agenzia J. Walter Thompson, che ha trovato un nuovo copy da assumere facendo fare il colloquio a chi avesse risolto un cruciverba diffuso con un'iniziativa comunicativa originale e molto divertente. Ma dalla multinazionale Deloitte, che ha siglato una partnership con Badgeville per un programma di sviluppo della leadership per 10.000 persone in più di 150 paesi del mondo, alla catena alberghiera internazionale Marriott, fino al Ministero della Difesa americano, aumenta l'uso della gamification anche nelle organizzazioni che stanno appunto scoprendo il potere del gioco per aumentare il coinvolgimento delle persone anche nel commitment aziendale. La parola gioco associata a consumi ci fa pensare naturalmente anche e soprattutto ai videogiochi e al loro mercato da miliardi di dollari l'anno. Tablet, smartphone, social network, cloud sono ovviamente alla base delle innovazioni nei videogame, la cui nuova frontiera, secondo Warren Spector, game designer della Disney, saranno videogame che possano in futuro sfruttare la moltiplicazione degli schermi, cioè essere presenti su display diversi contemporaneamente. Insomma, videogame diffusi che saranno, anche come modello di business, una via di mezzo tra le app. Pensiamo a Apple e Google e ai loro Apple Store pieni di videogiochi a prezzi bassissimi che hanno modificato radicalmente questo mercato, e i giochi elettronici tradizionali. Come dire che il futuro dei videogame vedrà meno console fisiche, più web, comprese le console virtuali per il miliardo attuale di videogiocatori. Anche il cinema non è rimasto ovviamente immune a questa tendenza. Primo film di genere, la pellicola di culto Tron del 1982, seguita nel 2010 da Tron Legacy. Nei mesi scorsi ha fatto notizia Hunger Games. Ora si parla di Ralph Spaccatutto, film d'animazione prodotto dalla Disney in cui il protagonista è un personaggio dei videogiochi. Spacco tutto! Aggiustalo tu, Felix! Si chiude, ultima partita, via tutti! Mi chiamo Ralph Spaccatutto. Spacco tutto! Sono 30 anni che lo faccio. Comincia a diventare difficile amare il proprio lavoro. Ci pensa Felix! Se non piace a nessuno per quello che fai. Spacco tutto! Spacco tutto! Spacco tutto! Deve essere bello di sicuro fare il buono. Bella condivisione, Ralph. Io sono Zangief, sono un cattivo. Ciao Zangief. Ralph, tu sei un cattivo, ma non vuol dire che tu sei cattivo. Zombie cattivo! Ciao zombie. Tu devi amarti. Io non voglio più fare il cattivo. Ralph è uscito dal gioco. Benvenuti alla stazione centrale giochi. I treni per tutte le gioco destinazioni sono in partenza. Patrizia, vanno molto di moda gli urban game, i giochi da fare nelle città. Sì, il gioco è ovunque, quindi anche in città, e i giochi urbani sono un fenomeno rilevante e interessante in tema di spazi pubblici che su questo fronte esprimono appunto molte energie, creatività e sperimentazioni. A Sydney, per esempio, si è potuto giocare a Snake, lo storico giochino del serpente che si faceva sugli schermi piccolissimi dei primi cellulari, dove sulle facciate degli edifici. Mobile Project Unit, nelle strade della città, ha dato vita a Snake the Planet Project, con un sistema di proiezione 3D, gli elementi architettonici da finestre, tetti a porte degli edifici di Sydney sono diventati attivi e parte del gioco, cioè ostacoli per il serpentello. E si gioca a Milano, Pic City, Pictures Across City, foto per le città, un gioco fotografico collaborativo ideato e promosso da Dust Lab e Snark, che si è già tenuto durante l'Internet Festival di Pisa. Utilizzando Facebook e Instagram, i giocatori fanno delle foto dei posti, delle persone, della città secondo un tema fornito. L'obiettivo è incrociare in questo caso un elemento biografico con i luoghi delle città per creare nuove mappe dal basso, nuovi livelli di mappatura degli spazi urbani. E si possono con il gioco anche trasformare le attività rutinarie domestiche o quelle lavorative del tempo libero, rendendole meno noiose. Si chiama Green Goose, è un kit completo di sensori, app, batterie e tutto il necessario per rendere appunto le giornate più divertenti. I sensori sono applicabili a qualsiasi cosa, al collare o alla ciotola del cane, a un frisbee, a una bottiglia d'acqua, all'immondizia, eccetera, e ne traccia i movimenti. In rete un gioco collegato che tiene traccia degli usi e dei percorsi degli oggetti, con degli score sugli standard migliori prefissati dal giocatore stesso e da raggiungere. Innescano anche comportamenti virtuosi i giochi, e per incentivare comportamenti ecosostenibili, quindi ecogesti con il gioco, l'idea del sito francese Cité Green, città verde, nome mezzo francese e mezzo inglese, che assegna punti e conseguenti sconti e regali a chi compie azioni buone per il pianeta, dal carpooling al riciclo alla raccolta differenziata, eccetera. Il gioco, abbiamo visto, attraversa gli schermi, i consumi, la città, l'architettura, la casa, ed entra anche nei musei, ma non come dispositivo intrattenitivo o a sostegno dell'apprendimento dell'arte, ma come oggetto da collezione permanente. Da marzo 2013 Pac-Man, Tetris, Super Mario Bros, Pong, Space Invaders sbarcano al MoMA di New York. Sono 14 videogame storici, quelli ideati tra il 1980 e il 2009, acquisiti dal museo, e altri 26 saranno in esposizione. La curatrice Paola Antonelli, alla domanda «Ma i videogiochi dunque sono arte?», ha risposto «Sì». La tecnologia ci fa giocare anche con i nostri eroi letterari. In rete si può giocare a Quidditch, lo sport che si fa con scope volanti e boccini con le ali a squadre, celebrato in Harry Potter, praticato dai maghetti di Hogwarts. Il gioco immaginato dall'autrice passa dalla fantasia letteraria alla rete e diventa reale, con regole, punti, vincitori e perdenti. Giochi e videogiochi hanno anche un contenuto serio, cioè possono formare e informare su temi geopolitici, questioni umanitarie, eccetera. Per essere tali hanno bisogno di attaccarsi l'aggettivo serio, proprio per dimostrare di avere obiettivi alti. Ecco quindi i Serious Game e gli Educational Game. Organizzazione non governativa Games for Change, fondata nel 2004, è appunto un movimento e un omonimo festival che sostiene l'uso di questo tipo di videogiochi per il cambiamento sociale, che è divenuta famosa tra l'altro per il gioco Darfur is Dying. E il gioco può avere anche una funzione legata alla salute, per la riabilitazione per esempio post-infarto o post-ictus. Nel Regno Unito l'IMSS Alive è un servizio terapeutico a sostegno di pazienti con parziali paresi o deficit motori che grazie a giochi specificamente progettati fanno l'adeguata dose di attività fisica per il recupero e o per il benessere. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Londra sui consumi in gioco? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, un saluto a tutti. Dunque, ogni anno nella capitale del Regno Unito si raccolgono 25.000 tonnellate di rifiuti dai cestini della città. Si calcola che il 70% potrebbe essere facilmente riciclato. C'è quindi un chiaro bisogno di incoraggiare questa pratica, sia nell'ottica di una riduzione dei costi di smaltimento, sia per preservare l'ambiente. È così che nasce Bin Scan Win, un'iniziativa congiunta nei distretti di Westminster e Camden. Come dice il nome stesso, cestina, scansisci e vinci, introduce un semplice meccanismo premiante all'atto di differenziare i rifiuti, per cui chi fa la cosa giusta può leggere un QR code applicato al cestino con il proprio tablet o smartphone e accedere al sito in cui sono elencati i premi in palio, oltre a informazioni sui progetti locali di riciclo e smaltimento dei rifiuti urbani, e scegliere il premio preferito. Ogni giorno un'estrazione random decreta il vincitore. I premi sono voucher di 20 sterline per spettacoli teatrali, eventi musicali, download da iTunes Store o per acquistare prodotti offerti da negozi locali. Insomma, un meccanismo virtuoso che ingaggia i cittadini con un espediente giocoso, sensibilizzandoli sui temi ambientali e facendoli partecipi in prima persona della pulizia delle strade della città. Il tutto attraverso un uso intelligente e ludico della tecnologia, con ricadute dirette sull'abbattimento dei costi della municipalità. Grazie Alessia, un'idea sicuramente da importare. Patrizia, siamo in conclusione. Noi oggi abbiamo volutamente lasciato fuori dal discorso il capitolo gioco d'azzardo, è un argomento del resto poco affine al taglio di Essere Avere. È bene però ricordare che è un settore che in Italia vale 80 miliardi di euro, il 5% del PIL, un settore in continua crescita e dalle conseguenze pesanti sul fronte della criminalità organizzata e delle ludopatie. La nostra è una società a rischio dipendenza dal gioco? Comincio col citare la tesi di Peppino Ortoleva, professore di storia e teoria dei media, che nel suo ultimo libro Dal sesso al gioco sostiene che così come il sesso è stato il paradigma del secolo scorso, il gioco è quello del XXI. Questo per dire che, come abbiamo detto oggi, il gioco è ovunque, è una dimensione centrale dell'esperienza quotidiana, della vita e dei consumi. Questo è il lato buono del gioco, che certo ha come altra faccia della medaglia ossessioni, dipendenze e anche patologie. Essere Avere @radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti anche sulla nostra pagina Facebook, dove potrete riascoltare questa come le altre puntate, così come sul sito radio24.it, sezione programmi. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.